Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Longoni in redazione, Fabio Cantadori in regia. Il Milan presidenziale vince di rigore il trofeo Berlusconi. Sempre meglio che perdere, direbbe Catalano, ovviamente. Specie se arrivi da una striscia di 8-5, a seconda che la pensiate come Leonardo oppure no, sconfitte consecutive, e ti presenti a un San Siro quantomeno scettico, ancorché piuttosto desolato, stante le abitudini passate nel trofeo Berlusconi. Progressi sì, tutto risolto proprio no, onestamente ha ammesso Gattuso. Perché? Perché Ronaldinho ha cambiato, sulle indicazioni presidenziali, io credo, il sentiero del passeggio, ma sempre di passeggio si tratta, perché le corsie laterali restano grosso modo terra di nessuno, affinché entra il ragazzino Abate, e se Pirlo non accende la luce rimane buio il centrocampo del Milan. Insomma, questi essenzialmente i problemi che si sono visti nella serata del Berlusconi. Dall'altra parte una Juve che, insomma, si è innamorata nella prima notte disponibile di Diego, suo nuovo acquisto, davvero un gran giocatore. Una Juventus che pure ha qualche problemino a largo sugli esterni. Vogliamo parlarne subito con un allenatore, ora collega, commentatore tecnico per le telecronache di Mediaset Premium, cioè Ilario Castagnier. Buon pomeriggio, Ilario. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ieri sera ho visto, poi sentiamo Berlusconi e tutte le voci del caso, ho visto Ronaldinho partire dalla posizione di punta centrale e ho visto Huntelaar certe volte fare anche l'ala destra. Non mi è sembrata una grandissima soluzione. No, Ronaldinho io credo che sia un giocatore che ami proprio partire dall'esterno o partire in ogni caso da posizione più arretrata tra le due linee. Il fatto è che il giocatore non è in condizione, ma non è neanche in condizione ancora tutta la squadra. Io credo che la squadra, per giudicarla, abbia bisogno poi del rientro di Seedorf e di Ambrosini, anche per dare poi degli equilibri tattici in mezzo al campo e dentro le due aree di rigore, solo perché c'è da considerare anche quello. Certo, Huntelaar, giocatore da acrobazia, giocatore da area di rigore, giocatore che, almeno visto all'estero, che ieri sera abbiamo visto poco, abile a non sfruttare i cross. In un'occasione nel primo tempo l'ho visto cercare il fondo per provare a mettere la palla in mezzo. È chiaro che se prendi Huntelaar per farlo giocare così non è esattamente la soluzione ideale. No, a me è sembrato un po' timido ieri, ancora un po' frenato, non ha ancora trovato i tempi di gioco con i compagni. Però io ho detto anche in telecronaca, cioè, un attaccante che ha il fiuto del gol, Inzaghi avrebbe accompagnato l'azione e sarebbe entrato probabilmente in un paio di volte in porta con la palla. Invece mi è sembrato non a posto fisicamente ancora, perché uno che sta bene fisicamente, se non altro, si muove a marce molto più alte e magari butta via delle energie, fa delle corse a vuoto, cerca movimenti che possono aiutarlo a prendere la palla più spesso. Invece l'ho visto spesso fuori del gioco. Stando alle dichiarazioni di Berlusconi, tornando a Ronaldinho, Ronaldinho non si tocca da questo Milan, nonostante Leonardo abbia detto alla vigilia: beh, deve crescere ancora, sta a lui, se non cresce potrebbe anche in fondo rischiare il posto per Leonardo. Per Berlusconi invece no, sì, questo Milan parte da Ronaldinho. È chiaro che però gioca ancora grosso modo da fermo, come detto prima ha cambiato il sentiero del passeggio, parte da posizione centrale e arretra per cercare la palla, però è chiaro che un Ronaldinho così rischia di essere un lusso eccessivo per un Milan che ancora non sta benissimo. Sì, sono pienamente d'accordo. Il Milan si è messo nelle mani di Ronaldinho e se Ronaldinho non risponde, chiaramente la società non lo può aspettare. Ricordiamo che un allenatore bravo come Ancelotti a un certo punto l'anno scorso lo mise da parte e scelse altre strade. Certo. E tra l'altro la squadra poi cominciò a vincere, quindi insomma, un aiuto ci deve essere da parte della squadra a Ronaldinho, ma molto deve fare il giocatore per se stesso. Un altro problema, e Leonardo lo sa benissimo, l'ha detto mille volte, manca spinte e qualità sulle fasce. Zambrotta e Jankulowski non riescono a garantirla, non so se riusciranno in futuro, ma ho qualche dubbio. E stando così le cose, Pirlo diventa ancora più importante, più centrale nel gioco del Milan, ha molta responsabilità sulle spalle perché è l'unica fonte del gioco. Sì, anche lui deve crescere, però non c'è dubbio che le migliori giocate del Milan in passato le abbiamo viste quando al top c'erano Pirlo, Seedorf e Kakà. Quindi adesso uno se n'è andato, secondo me, e io so, al Milan molti tifosi non vedono bene Seedorf. Io sono del parere invece che questo è un giocatore molto importante. Ma determinante in ogni Milan che ha vinto in passato, e determinante in ogni Milan che ha qualche ambizione. Bene la coppia centrale Nesta Silva, e mi è sembrata la notizia migliore per la serata milanista. Sì, anche Nesta deve crescere, deve migliorare, tutte e due devono migliorare. Io sentì proprio in un'intervista a Nesta dire che Thiago Silva assomigliava secondo lui a Cannavaro, quindi io credo che sia una bella coppia. Tra l'altro abbiamo visto quanto è forte di testa Thiago Silva, è uno di quei giocatori che salta prima, quindi anticipa tutti, poi si ferma in aria. Questa è una dote molto importante per un saltatore. Ilario, la Juventus che insomma sei innamorata per una notte di Diego, mi sembra un gran giocatore. Ieri sera conversando con un collega vicino di posto allo stadio dicevo, beh, poteva essere l'idea migliore, l'idea più azzeccata per l'Inter di Mourinho. È un giocatore che ha tutto, ha fisico, ha contrasto, ha grande fantasia, ha piedi, ha grande personalità. È chiaro che è solo un'amichevole d'estate, però Diego l'abbiamo visto negli altri anni col Verde, mi sembra un eccellente acquisto per la Juventus e per il nostro campionato. Sì, sì, io mi sono sbilanciato prima della partita e anche dopo, secondo me questo è un grande giocatore. Non dimentichiamo che ieri l'abbiamo visto senza diciamo che lui sia al top della condizione, quindi ha sorpreso tutti, ha entusiasmato nonostante forse al 60% adesso, perché è un giocatore che ha continuità di gioco, cambi di passo, sì, visione di gioco, è uno che rifinisce, fa gol. È un acquisto azzeccatissimo, importantissimo, bisogna dire bravi ai dirigenti juventini, e io l'ho detto anche ieri in telecronaca, questo avrebbe fatto comodo all'Inter, avrebbe fatto comodo al Milan, avrebbe fatto comodo a tante squadre. Sì, si vede comunque la Juve, il difetto strutturale che rimane alla Juve come per il Milan è la scarsa qualità sulle fasce, no? Poi nel centrocampo di ieri sera c'erano a fare gli scudieri di Felipe Mero, c'erano Saliamizic e Marchisio, un centrocampo leggerino fisicamente. Sì, beh, quando a me sembra che la squadra diciamo sia buona, perché adesso è stata potenziata, a parte le cavolate che ha fatto Felipe Melo, però sì, quando rientrerà Sissoko, c'è Camoranesi, insomma io penso che sì, certo, non so come sarà, com'è Caceres, perché è un giocatore che conosco poco. Le squadre che vincono in genere hanno anche grandi difensori esterni che spingono, che sono, sì, quelli che poi alla fine, quando centrocampisti e attaccanti sono marcati, sbloccano un po' la situazione. Abbiamo visto Maicon cosa fa nell'Inter, quanto, certo, sia stato importante, certo. Per cui forse sia al Milan che alla Juve giocatori di queste di qualità farebbero comodo. Un po' fatica nel trovare il gol la Juventus, eh. La Juventus, no, io credo che quando saranno tutti a posto con quei giocatori che hanno, quelle qualità dei giocatori che hanno a disposizione con Diego al meglio, secondo me di gol ne faranno parecchi. Grazie Ilario, grazie davvero. Grazie, un saluto a tutti. Grazie davvero Ilario Castagnar, con cui abbiamo analizzato tecnicamente e tatticamente la partita di ieri sera, che ha offerto queste chiavi. Non so se siete d'accordo, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349-238-6666. Dopo il traffico vi faccio sentire le voci di ieri sera, a cominciare da Berlusconi, per poi andare su Leonardo e Ferrara, ma subito vi faccio sentire la voce di Roberto da Roma, che è il primo ascoltatore di oggi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. Allora, io non riesco a capire una cosa, ma in questo paese è una normalità. Cioè l'anno scorso, riguardo la Juventus, che ha fatto un ottimo campionato, tutti quanti non sapevano di che parlare, chiaramente il campionato era stato... Senta Roberto, io faccio fatica a sentire la sua voce che va e viene, pertanto mandiamo il traffico, poi proviamo a ripristinare il collegamento e poi proviamo a capire insieme che cosa lei non capisce, perché la voce davvero è... il collegamento non è ottimale. Allora proviamo a capire cosa Roberto da Roma non capisce. Prego. comporre. No, niente, Roberto da Roma, difficoltà di collegamento e di comunicazione, comporre il numero, no, non va bene. Allora, sentiamo le voci di ieri sera, a cominciare da ciò che ha detto Silvio Berlusconi sul suo nuovo pupillo, Ronaldinho. Che si gioca a centrocampo sulla sinistra è ininfluente nell'equilibrio generale della squadra. Chiunque altro buon giocatore potrebbe fare la parte di Ronaldinho, che invece è unico. Per essere il Ronaldinho unico che noi vogliamo ritorni ad essere, deve giocare là dove può nascere un'azione pericolosa, cioè sul limitare dell'area, dietro la punta o le punte o dentro l'area. Da lì possono venire fuori tanti falli, perché è difficile da contenere da parte delle difese, possono venire fuori dei calci di rigore, possono venire fuori degli assist magici, possono venire fuori dei gol. Quindi l'imperativo categorico per un Ronaldinho, come lo vogliamo noi, che ritorni a essere se stesso, è che lui assuma stabilmente questa posizione. Dunque, imperativo categorico che Ronaldinho giochi grosso modo dove ha giocato ieri sera, cioè partendo nella posizione di centravanti, di punta centrale, per poi arretrare a cercare i palloni. Però è un Ronaldinho che gioca da fermo, è un Ronaldinho che ancora passeggia, e dunque è molto molto lontano da quello che conosceva anche il presidente Berlusconi, che poi di Leonardo, del suo nuovo allenatore, ha parlato così. Credo che sia stata un'ottima scelta, come lo fu a suo tempo la scelta di Capello, che era un manager del Milan esattamente come Leonardo e aveva la grande esperienza da grande giocatore. La formazione, ci mancherebbe altro, la fa l'allenatore. Però il presidente deve essere ascoltato, perché altrimenti che presidente è? Se l'allenatore non lo soddisfa, la società cambia allenatore. Avete capito, no? Le parole sono molto chiare, quelle del presidente Berlusconi, che non è sceso in campo per la premiazione del suo Milan, perché gli è stato chiesto, perché non avevo la cravatta, ha detto Berlusconi, in realtà perché c'era un po' di vento di contestazione sulle tribune. Roberto da Roma, vediamo se ce la facciamo a parlare insieme. Eccoci. Meglio adesso? Proviamo. Dica. Allora, le stavo dicendo. Cioè, l'anno scorso nessuno è andato, diciamo, in soccorso a Ranieri, anzi, visto che non si doveva parlare di niente perché il campionato era morfinato e sarà anche quest'anno la stessa cosa, tutti quanti, diciamo, hanno intavolato il discorso Ranieri fino a fargli rassegnare le dimissioni, ma per sua coscienza, non perché sia stato, diciamo, perseguitato verbalmente dai giornalisti. Cioè, adesso mi sento dire, da un mese a questa parte, visto, diciamo, anche il nuovo corso di questo campionato, che l'incognita della Juventus sarà proprio l'allenatore. Ma io sinceramente a questo punto francamente non ci capisco più niente. Cioè, prima la classe giornalistica non sa di che parlare e attacca verbalmente, io non dico umanamente, ma c'è mancato poco, un allenatore è un signore, anzi l'unico che in Italia ha un certo stile, e adesso mi vengono a dire che la Juventus è completa, però l'incognita è Ferrara. Non lo so. Dunque, le dico, l'incognita è Ferrara, nel senso che Ferrara chiaramente ha la sua prima esperienza su una panchina così importante come quella della Juventus, quindi l'incognita è Ferrara, così come può essere Leonardo l'incognita per il Milan. Secondo me faranno bene entrambi, nei limiti del possibile, nei limiti dell'organico e nei limiti dei rispettivi obiettivi, che sono secondo me differenti. Quanto a Ranieri, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto e lo faccio tuttora, che Ranieri ha spremuto il massimo dall'organico per due stagioni, il massimo dall'organico che aveva a disposizione. Era diciamo mal sopportato da una parte dello spogliatoio juventino, appoggiato fino a un certo punto da una dirigenza che alla fine ha preso le parti di uno spogliatoio che era diviso, perché non è un mistero che la vecchia guardia alla fine abbia rotto totalmente con Ranieri. Alla fine ha prevalso la preoccupazione di non riuscire a centrare il traguardo della Champions League, e così è finita la storia di Ranieri alla Juventus, che, ripeto, secondo me nelle due stagioni in cui ha guidato la Juve ha fatto bene, non cambio la mia valutazione, non vedo perché dovrei. Serafino da Roma, buongiorno. Da Genova, mi scusi, ha ragione. Prego. Dica. Allora, io volevo fare due considerazioni sul Milan, fermo restando che sono genuano. Sì. Io vedo una squadra, vado controcorrente, vedo una squadra fortissima, a parere mio. col rientro di Seedorf, che è il migliore, uno dei migliori centrocampisti del mondo. Sì, sì, sono d'accordo. E con la forma che troveranno Gattuso e Pirlo, è una squadra molto più veloce, vedo che hanno questi scambi, cercano di cambiare di prima. E io l'unico appunto che faccio al Milan è aver preso quel ragazzino lì olandese, cos'è, Huntelaar. Sì, mentre potevano andare tranquillamente dove? Un italiano tipo Mazzini, che costava sì dei soldi, ma il problema è proprio quello, per la politica di Berlusconi, che vuole ridurre gli ingaggi anche al doppio di quello che prende nella Sampdoria, e avrebbero tolto un giocatore molto importante contro i miei rivali. E penso che avrebbero trovato un giocatore già pronto per il campionato italiano. Però Serafino, il Milan cercava una punta di peso, cosa che Pazzini è, mille altre cose, è un giocatore che a me piace moltissimo, ma non è certo la punta che come caratteristiche fisiche voleva e serviva a Leonardo. Io vedo Genoa e Sampdoria, è fortissimo. Sì, no, ma nessuno. I giocatori di testa che esistono in Italia, sì. In assoluto. No, ma sono d'accordo su. Non stiamo discutendo il valore di Pazzini, stiamo discutendo le caratteristiche tecniche e fisiche di Pazzini. Non è un giocatore che serviva al Milan, visto dove gioca Huntelaar. Se giocherà in quella posizione, dubito che sia anche Huntelaar il giocatore che serve al Milan, perché ieri sera, ripeto, ha fatto l'ala destra. Huntelaar. Come lo chiama Alberto Costa? Adesso vado a cercarvi la sua valutazione sul Corriere della Sera, anzi Domenico Calcagno sul Corriere della Sera, vado a cercarvi la valutazione sulla pagella, classico boscaiolo d'area di rigore, viene definito. No, è un giocatore fisico, è un giocatore bravo in acrobazia, è un giocatore che ha fiuto del gol, però è un giocatore che va rifornito con munizioni dalle fasce, cose che il Milan non è in grado di garantire con o senza Seedorf. Sono d'accordo sul fatto che Seedorf sia uno, resti uno senz'altro dei più forti centrocampisti d'Europa, possiamo anche allargare il discorso. Sono d'accordo sul fatto che sarà determinante in questo Milan, che è un Milan comunque corto dal punto di vista dell'organico. Non mi sembra che abbia cambiato in maniera così evidente come sostiene il nostro ascoltatore da Genova il suo modo di giocare, perché Leonardo vorrebbe usare fasce che non ha giocatori, nonostante gli abbia richiesti giocatori in grado di fare quel gioco. Credo che in questo Milan possa diventare, proprio per questo motivo, non so se indispensabile o soltanto molto utile, l'apporto di Abate, che ieri sera ha fatto il cross per il gol di Pirlo e che mi sembra l'unico ad avere le gambe per arrivare sul fondo e mettere in mezzo il pallone. Mario Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti, io da ex tifoso del Milan, adesso solo simpatizzante, volevo fare delle considerazioni su questa squadra. Come mai il passaggio da tifoso a simpatizzante? Ma francamente ormai sono 5-6 anni che mi sono disinnamorato di questo sport, quindi insomma sì, capisco. Troppe cose che non mi quadrano, ecco. Però senta, alcune considerazioni. Intanto consiglierei caldamente ai dirigenti di non comprare più brasiliani che iniziano con la R, perché dopo Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, francamente, sì, abbiamo esaurito la pazienza. Tre indizi fanno una prova. Ecco, sì. Poi vorrei fare un altro tipo di considerazione un pochino più seria. Quest'anno credo che Galliani sia stato onesto, perché ha chiaramente detto dall'inizio che si punta al terzo posto. Quindi da questo punto di vista, ecco, fa bene a non far illudere i tifosi. Però per questo motivo mi chiedo, perché investire su un attaccante, sarà anche bravo, non lo metto in dubbio, quando se ne hanno già almeno tre, insomma, ottimi come Inzaghi, Pazzo e Borriello, e lasciare la difesa ancora, insomma, in uno stato, francamente, che è drammatico, Sì. Ecco, questa considerazione, perché credo che ormai quest'anno si possa puntare solo appunto l'obiettivo che ha detto Galliani, ecco una sua considerazione. Sì. Beh, l'obiettivo, allora c'è un vizio di fondo, l'obiettivo, per quanto riguarda gli obiettivi, questo Milan secondo me non è da scudetto, tantomeno da Champions League, è una squadra che deve andare sulle posizioni che valgono la qualificazione in Champions League come nelle ultime stagioni. È inutile secondo me in questo momento parlare di scudetto, perché non è il caso. Eppure l'equivoco di fondo è nel fatto che è una squadra che costa dal punto di vista del monte stipendi e degli ingaggi quanto una squadra competitiva a livello nazionale ed internazionale. Questo è il vizio di fondo. Quanto alla difesa, Ma sa, io ripeto, se c'è una nota positiva in questo Milan dall'inizio di stagione molto travagliato e molto difficile, sta nell'aver composto una coppia centrale che nelle ultime stagioni non c'era. Nesta l'anno scorso non ha giocato, non so, e questo non lo posso sapere, probabilmente non lo sa nemmeno lui, se è in grado di reggere fino in fondo giocando una volta ogni tre giorni, perché comunque, ripeto, è reduce da problemi molto seri. Thiago Silva mi sembra un eccellente difensore, anche se non trovo così aderente il paragone con Cannavaro, molto meno arrembante, però con eccellenti piedi, eccellenti doti atletiche. Sugli esterni io credo siamo vicini al capolinea per Zambrotta, che non, insomma, che mi sembra un po' logoro. Stesso discorso per Jan Kulowski. Quindi quel terzino che Leonardo chiede mi sembra una richiesta assolutamente sensata. Terzino che chiede e che presumibilmente non avrà, perché ieri sera Gagliani ha detto: mercato chiuso, chiusino, se va via un difensore, che sarà Oddo, se riescono a darlo via, perché anche Oddo guadagna molti soldi. Se va via Oddo potrebbe arrivare un altro difensore. Berlusconi ha detto: mercato totalmente chiuso, non so come finirà questa querela. C'è un ascoltatore che tra i molti messaggi 349-238-6666, c'è un ascoltatore che segnalano l'assoluta confusione ieri sera all'esterno del Meazza per quanto riguarda la voce biglietti, biglietterie, tessere tifoso e quant'altro, ed è vero, reale, regna grandissima confusione per quelli che ancora vogliono andare a vedere il calcio. C'è anche chi dice: ma perché non parlate neanche un minuto dei campionati di atletica, prevale sempre il calcio anche d'estate? Ma parliamo, per la verità, tutti i giorni, e lo facciamo anche più tardi con Giorgio Rondelli, anche perché già vi anticipo i risultati di oggi, che ci regalano la Di Martino in finale nel salto in alto, anche se con qualche difficoltà, che hanno visto il ritorno in pista di Usain Bolt passeggiare nei 200 metri, ma siamo solo alle batterie. Per adesso rimaniamo sul calcio con le voci e con gli ascoltatori. A proposito di voci, vi voglio far sentire Leonardo. Tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, che non è stato per niente facile, che è stato faticoso a livello fisico, a livello mentale, ma credo che tutto questo ci sia servito tantissimo. Oggi credo che l'approccio alla partita è stato straordinario, credo che si è mantenuto anche durante tutta la partita. Forse se togliamo i primi 10 minuti del secondo tempo, veramente la gestione della partita, dei momenti, delle spingere al momento giusto, organizzati, credo che tante cose positive, però credo che la cosa, diciamo, da sottolineare sicuramente è l'orgoglio che questa squadra ha tirato fuori. È una partita amichevole, sì, però c'era voglia di mostrare noi stessi, di misurarci con la grande, che è la Juve, che ha fatto un precampionato straordinario. Faccio anche complimenti a Ciro, perché siamo incontrati in queste vacanze, è stata una, diciamo, una complicità di cominciare un po' in un modo simile, per quello incontrarlo oggi è stato un piacere, è sempre un piacere incontrare Ciro. E oggi veramente faccio complimenti per tutto quello. Per quello io oggi sono molto felice, e la squadra anche. Questo era Leonardo. Vi faccio sentire anche molto rapidamente dichiarazione breve a bordo campo di Ferrara sul suo nuovo regista, Diego. A lui ha delle grandissime qualità, sia in fase di possesso palla, ma anche in fase di non possesso. È molto bravo a farsi trovare libero, un giocatore che oltre ad avere grandissima tecnica è anche molto potente, e quindi è chiaro che stasera non poteva essere al 100% della condizione, ma ha fatto delle ottime cose anche nei contrasti, si vede che è uno duro. Questo Ferrara su Diego. Roberto Da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire relativamente ad un aspetto, ad una notizia che sistematicamente viene celata. E salvo i podcast e le relative date che vorrà indicarmi, allo Stato non mi risulta che abbia mai dato notizia, nella sua qualità di giornalista sportivo, della copertura del debito Inter di euro 500 milioni e relativi 500 milioni di euro e relative indagini Saras. Sì, questo è il tuo ritornello che facciamo così, un giorno l'accontentiamo e facciamo una bella puntata su questo argomento che interesserà lei e magari anche qualcun altro, debito, Saras, indagini, eccetera, eccetera. Ma quando la finiamo? Debito Inter, sì, esiste, debito che viene ripianato da Moratti, indagini Saras, non so a cosa lei si riferisca, ma non riguarda, io credo, nemmeno questo ambito sportivo, forse ha sbagliato indirizzo, abbiamo ampie programmazioni molto autorevoli che riguardano l'economia e i suoi problemi, probabilmente lì dovrebbe rivolgersi. Tra poco ricominciamo a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde, però insomma lasciamo stare un attimo la partita di ieri sera, magari anche debito dell'Inter e amenità assortite. Campionato meno 4, 4 giorni al via, è il tempo anche delle curiosità e delle sfigurature, proveremo ad offrirvene una al giorno aspettando il campionato. Ce n'è una che mi interessa in maniera particolare. Per l'autunno-inverno prossimo andrà la riga stretta, andrà il colore d'antan, sempre di moda una spruzzatina d'oro, insegna l'Inter stessa con i numeri appunto in color oro, la Fiorentina, la stessa Udinese che hanno fregi sulle magliette. È sempre più un calcio modaiolo. Vogliamo parlarne allora, anche perché nei giorni scorsi ho letto un'agenzia interessante, con Marco Boglione, che è presidente e fondatore della BasicNet, che raggruppa i marchi K, roba di K, Superg, che veste diverse squadre della nostra Serie A e non solo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, calcio sempre più modaiolo, dicevamo. Sono di moda, mi par di capire, gli anni Ottanta. Diciamo calcio sempre più modaiolo, più o meno, nel senso calcio sempre più diciamo legato ai colori sociali, ai valori delle tifoserie, ai valori, le citava lei prima, fregi, marchi, richiami di colore della tradizione. Poi ci sono anche nel calcio un po' i cosiddetti megatrends, quindi quando vanno certi periodi, certe tendenze nella moda, li ritroviamo poi anche nelle maglie, nelle divise delle squadre di calcio. Senta, io leggevo le sue dichiarazioni, voi vestite tra l'altro la Roma e avete ripescato un colore particolare, anche un simbolo particolare nella grafica. Sì, la lupa, il lupetto degli anni, dei primi anni Ottanta, il marchio che aveva voluto il presidente Viola, che aveva contraddistinto quei momenti belli, epici, di grandi giocatori e di finale di quella che si chiamava Coppa dei Campioni, in quei tempi, sì, del Champions League di oggi. Sì. Senta, ma all'estero la voce merchandising è importante nei bilanci dei grandi club, importantissima addirittura in Inghilterra, in Spagna, è storia recente quella delle migliaia di magliette vendute con il nome e il numero di Kakà o di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda Real Madrid. Insomma, è una voce di bilancio che pesa tantissimo. In Italia continua ad essere per i nostri club una voce di bilancio marginale. C'è il problema, lo sappiamo benissimo, delle maglie taroccate in vendita illegalmente davanti ad ogni stadio, ma credo sia anche una questione culturale. Lei che ne pensa? Sì, sono d'accordo, sono le due componenti insieme. Da una parte c'è un fatto culturale per cui da molti più anni si sta cominciando, nei paesi anglosassoni, soprattutto in Inghilterra, sono tantissimi anni che la tifoseria ogni anno si identifica con la maglia di quella stagione, e poi c'è una tradizione di abbonamenti allo stadio molto più consolidata, e quindi è quasi un must, quasi obbligatorio comprare l'abbonamento e la maglietta. Quindi i grandi club partono con delle grandissime produzioni che sono già vendute prima ancora di cominciare. E questo è l'aspetto culturale. Poi c'è questo aspetto invece un po' più tristemente tipico italiano dell'illegalità, e quindi in Italia c'è un mercato cosiddetto grigio molto più ampio, che non solo toglie volumi al mercato in chiaro, ma disturba anche un po' il consumatore, quindi alla fine sono numeri più piccoli, benché anche per le società italiane ormai il merchandise è un dato molto rilevante, sì. Perché tante volte no, perché si danno i valori che sono ormai molto rilevanti per le grandi squadre italiane, Roma compresa, Juve, Milan, Inter, della cosiddetta sponsorizzazione tecnica, ma sì, la sponsorizzazione tecnica include i diritti di merchandising, quindi sì, se non ci fossero i diritti di merchandising, la sponsorizzazione tecnica varrebbe molto meno, di conseguenza si può dire che il merchandise conta molto anche nei bilanci delle nostre squadre. Sì, la mia impressione è che vorrebbe contare ancora di più, no? Però c'è questo gap culturale per cui all'estero, in Inghilterra, un tifoso vuole una maglietta della sua squadra e vuole una maglietta originale. In Italia non c'è esattamente questo tipo di cultura. Magari uno vuole la maglietta, però dice mi accontento di quella alla bancarella da 10 euro e festa finita. C'è questo peso culturale, comunque si sente, io credo, nel commercio delle magliette originali delle squadre. Assolutamente sì, io non posso aggiungere altro a quello che ha detto lei. Le chiedo ancora questo, per una grande azienda il calcio che tipo di veicolo è? Cioè quanto conta, quanto è importante, quanto è interessante, quanto è redditizio fare le magliette di un grande club, essere vicino ad un grande club, essere nel calcio? Ma guarda, il calcio è un veicolo che funziona molto bene, questo lo sapete bene voi della comunicazione, funziona in televisione, funziona commercialmente. Poi diciamo, ci sono sostanzialmente due tipi di aziende, le aziende che fanno dei prodotti legati al calcio, come potremmo essere noi che facciamo abbigliamento sportivo e quindi anche abbigliamento da calcio, e le aziende che invece usano il calcio ma per dei prodotti che non hanno niente a che vedere con il calcio, prende il caso di una compagnia telefonica. Quindi direi che per le aziende come le nostre che fanno questo prodotto conta moltissimo, è imprescindibile. Se uno vuole vendere dell'abbigliamento, delle scarpe da calcio, la cosa migliore quasi inderogabilmente che deve fare è usare il proprio prodotto da dei leader, dei super leader. E come beneficio collaterale, diciamo, riceve anche un'esposizione per il proprio marchio che è molto molto rilevante. E poi è comunque dimostrato che per tutte le aziende, indipendentemente dal settore, il calcio è un grande veicolo, diciamo, chiave in mano che raggruppa, la chiave in mano nel senso che quando tu sponsorizzi una squadra di calcio compri il media e compri anche lo spot in qualche modo, sì. Non devi neanche girare il filmino. Sì. Poi come tutte queste cose che sono dei grandi investimenti, per definizione possono andare bene e possono andare male, quindi non è la gallina delle uova d'oro, bisogna, proprio perché sono cifre molto grandi, bisogna poi saperle ammortizzare, sfruttare e metterle a profitto. Io la ringrazio davvero, buon lavoro. Grazie altrettanto. Grazie. Grazie davvero a Marco Boglione. Dunque, vi piacciono le magliette di quest'anno? Una domanda che faccio così. Vedo molti sms di disegno diverso, ma comunque interessati all'argomento. Va la riga stretta. A me non è che facciano impazzire le magliette, ad esempio, del Barcellona, ad esempio della Juventus, è molto classica, molto tradizionale, ma quella del Barça, che secondo me è una delle maglie più belle del calcio internazionale, quest'anno non mi piace così tanto. Non so a voi. Riprendiamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Alessio, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Tanto complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda sull'atletica leggera, per favore. Prego. Sto seguendo i mondiali da sabato, praticamente quando hanno cominciato. Stiamo facendo una pessima figura, tra virgolette. Domando come mai l'Italia non si preoccupa di formare dei giovani pronti, insomma, ad andare in... non so, perché mi ricordo quando ero più ragazzo che alcune Olimpiadi mondiali, insomma, qualche medaglia ce la portavamo anche a casa. Adesso sì. È già un lusso se riusciamo ad arrivare in una finale, cioè ieri è arrivata la ragazza Kuzma, mi sembra, Kuzma, negli certo. 800, sembra che abbiamo già, cioè è già un successone, per dire. Quindi domando come mai c'è questo, non so, stiamo lasciando l'osso praticamente nell'atletica, ma perché non si guadagna? No, ma guardi, metto giù e lascio spazio agli altri. Una seconda cosa, volevo fare un piccolo appunto, nel senso, una maglietta originale comprata da me l'anno scorso dell'Inter costa 90 euro. Lo so, no, ma il prezzo è altissimo. Cioè, prezzo dai 70 ai 90 euro. Dai 70 ai 90 euro costa. Cioè, in Inghilterra magari le vendono tante perché o costano meno. E no, il problema è quello. Il problema è quello. In Inghilterra costano uguale, cioè costano un sacco di soldi, così come costano un sacco di soldi in Spagna. È una questione di mentalità, non so dirle se sia migliore o peggiore, anche perché onestamente 90, 70, 80, 90 euro sono un sacco di soldi. Ovviamente le squadre rifanno ogni anno il guardaroba, quindi la maglietta è diversa da quella dell'anno scorso. In tutta onestà io non posso non essere d'accordo con quelli che dicono vabbè, non è che sono lì a comprarmi una maglietta all'anno, va bene quella dell'anno scorso, quella di due anni fa e festa finita. Insomma, è proprio una questione culturale e come italiani forse non riusciamo a capire fino in fondo la mentalità anglosassone, anche quella spagnola, per cui ogni anno si deve avere una maglietta originale del proprio club. Però è così, insomma, è una questione di cultura e di mentalità. Già che stiamo parlando di atletica, Giorgio Rondelli, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Non so se hai sentito l'intervento dell'ascoltatore, come mai l'Italia fatica a produrre talenti in atletica leggera. In passato, tu sai benissimo, da allenatore di Alberto Cova, quella generazione ci ha regalato medaglie d'oro, generazione probabilmente irripetibile. Si torna a parlare, guardando correre la Kuzma, di Gabriella Dorio. Perché non siamo più quelli là? Non siamo più quelli là perché nel giro di 25 anni l'atletica mondiale ha fatto un passo in avanti incredibile come diffusione, perché c'è l'Africa che ha portato soprattutto nel mezzo fondo, prolungato nel fondo, uno sterminato gruppo di campioni. Poi può darsi anche che sicuramente noi non riusciamo più a trovare una programmazione, uno sfruttamento, una gestione dei nostri migliori talenti, quindi tante concause che ci hanno portato in questa situazione di sofferenza. Adesso siamo aggrappati a qualche atleta, come tu prima hai sottolineato la Kuzma, magari anche una Di Martino che stamattina si è qualificata agevolmente saltando 1,95 e che dopo domani farà la finale, e poi magari a Schalter, in un'atletica che non fa sconti a nessuno, perché anche la Zarina Isinbayeva ieri sera, certo, addirittura non ha preso nessuna medaglia, ha saltato tre prove nulle alla misura di entrata, quindi questo per dire della difficoltà di mantenersi a certi livelli. È stato il grande flop di questo mondiale, la Zarina Isinbayeva, che ieri ha lasciato dopo questi tre nulli e con le lacrime agli occhi, però un po' l'avevamo detto, no? Era un Isinbayeva difficile da leggere come condizione, come momento della carriera, molto brava a nascondersi, però questa volta dietro questo velo c'era il bluff. Ma io penso di sì, perché cioè, poi alla fine l'atletica ti aiuta a leggere le situazioni con le cifre, Carlo. Insomma, quest'anno aveva saltato molto poco, aveva anche una sconfitta, aveva un fastidio al ginocchio che l'ha penalizzata nella preparazione. Ebbene, io credo che sia stata un po' presuntuosa a entrare in gara a 4,75, così si è trovata subito un ostacolo che altre volte saltava da più chiusi, ieri sera non era così, poi è andata un po' in confusione. Poi su queste lacrime postume, così, insomma io ci farei un po' la tara, ecco, perché è anche, l'abbiamo vista in altre occasioni, è anche una splendida attrice, oltre che un'atleta straordinaria, sia chiaro. Incantatrice di serpenti l'hai definita l'altro giorno, Giorgio, ai nostri microfoni. Beh, così, vai. Sì, è esattamente questo. Chi invece è rimasto una macchina da guerra è stato sicuramente Bekele, che ha incamerato il quarto titolo mondiale sui 10.000 con la solita volata devastante in una gara che è stata di grande feroce agonistica con l'Eritreo Tadese, che tra l'altro è l'unico uomo che l'aveva sconfitto in questi anni proprio ai campionati mondiali di cross del 2006, però poi una volta arrivati all'ultimo giro Bekele ha ingranato la marcia. Sono ricominciati i 200 stamattina con una grossa sorpresa che avevamo un po' anticipato anche ieri: non c'è al via Tyson Gay, che non è partito, qualche problema muscolare, forse vediamo se recupera per la staffetta. Certo che adesso l'incertezza del pronostico non c'era, vediamo se con quanto sarà stimolato alla grande prestazione, non tanto alla vittoria, Usain Bolt, che ha vinto in scioltezza la sua batteria in 20,70, spingendo il carrello della spesa. Allora, risultati della mattina per l'appunto: Bolt in batteria che corre in scioltezza, in totale scioltezza, batteria di 200, 20,70 al suo tempo. La notizia appunto, ma l'aveva anticipata Giorgio Rondelli ieri, che non c'è Tyson Gay, e quindi viene a mancare quella che poteva essere la sfida più eccitante del mondiale intero, perché sapete come Gay sui 200 sia ancora più insidioso per il marziano di quanto non sia sui 100 metri. Sempre notizia della mattina: Antonietta Di Martino salta 1,95 m, che vale la finale dell'alto. Giorgio, come l'hai vista? Così. Ma io l'ho vista decisamente bene, una sbavatura, sì, 1,89, rimediato la seconda prova, e salti molto puliti a 1,92 1,95, che era la quota di qualificazione, superata da una decina di atlete e poi un paio ripescate a 1,92. Per quello che si è visto così come sensazioni tecniche nella fase di qualificazione, la Friedrich, che addirittura la tedesca, è entrata in gara a 1,95, cioè una cosa incredibile, credo che sia l'altezza maggiore a cui un atleta è entrato in gara in una fase di qualificazione, una prova, e se n'è andata a prendersi un aperitivo. E poi la Vlasic, che è la grande sconfitta degli ultimi anni, mi sembrava così molto carica, molto vogliosa di fare un dispetto alla Fredi. Quindi loro due mi sembrano, dal punto di vista tecnico, un gradino su, qualche centimetro sopra la Di Martino. Poi nella mischia per un eventuale bronzo, sempre così teorico, credo che la Di Martino abbia le carte in regola e la costo alla spagnola Beitia, e quella l'atleta che forse se becca la giornata, mi è sembrata il piede esplosivo, direi la russa Cicerova, che ha un fisico di vicino all'1,90 e non è molto regolare nei salti, ma se trova l'angolo migliore di stacco, forse come valore tecnico potrebbe essere la terza, ma assolutamente la Di Martino ha le carte in regola per una medaglia, come credo che abbia anche la Kuzma. Kuzma, grande speranza azzurra. Tu insomma eri un po' scettico sulle possibilità di questa ragazza di arrivare tanto in alto, eppure ma a giudicare dalle prime due prove è andata molto bene. Quella finale sarà un'altra storia, però allora, è competitiva. La prima lei ha vinto batteria e semifinale alla stessa maniera. Diciamo che nella batteria a me non era piaciuta tantissimo, sembrata arrivare un po' sofferente. Poi dietro le quinte si è saputo che aveva molta tensione per questa gara. La semifinale l'ha interpretata molto bene. Dopo le prime due semifinali, era nella terza, la vedevo quasi fuori, perché dovevano passare le prime due, c'erano atlete molto forti, più qualificate di lei, e poi la Gelimo, che era la campionessa mondiale, non era in condizione, addirittura si è ritirata. L'americana West, il secondo tempo mondiale, è andata indietro e lei si è portata davanti, a mio avviso, facendo il tipo di gara che le è congeniale, un passaggio non veloce ai 400 e poi un secondo giro addirittura più veloce del primo, che a certi livelli in campo femminile credo che se una tattica del genere se ripetuta in finale può portare una medaglia. Il grosso punto interrogativo è: ma le altre le faranno fare questo tipo di gara? Questo non sappiamo. Se dipendesse da lei, stare davanti su ritmi non eccezionali, avere davanti il terreno sgombro e fare questa progressione mortale, credo che solo la sudafricana Seminia abbia margini superiori. Con questo tipo di gara può saltare sulla medaglia. Su un tipo di gara invece molto veloce all'inizio e dove bisogna sgomitare per prendere la posizione, diciamo che le sue chance sono ridotte, ma ce ne sono ancora. Quindi bisognerà incrociare le dita e vedere più quello che potrà fare lei, cosa decideranno di fare certo, gli avversari. Quale tipo di gara, molto forte. Quale tipo di gara le grandi favorite imposteranno? Grazie Giorgio. Ma la grande favorita sì, è una sola poi. Sì, non solo questa Seminia, perché le keniane, anche la Jep Koskei si è addirittura entrata in finale con i tempi ripescati, quindi diciamo che le semifinali hanno fatto fuori almeno due grandi favorite, quindi direi che è una chance che la Kuzma non si deve far scappare. Grazie Giorgio, alla prossima, a domani. Grazie a voi. Grazie a Giorgio Rondelli. Io vi voglio far sentire, prima di tornare agli ascoltatori, Emanuele D'Ancona, Alessandro, poi Attilio, vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme, però voglio farvi sentire le dichiarazioni di Antonietta Di Martino ai microfoni Rai subito dopo la prova di oggi. Sentiamola. Per saltare molto alto io devo metterci veramente tanta forza. Ho visto che comunque a 80-85 ho fatto veramente dei salti esagerati, mettendo veramente troppa forza. Allora ho cercato un po' di andare un po' fly down, diciamo così. E la vedo abbastanza difficile. Ho visto un po' la Cicerova, la Slesarenko, meno. Vabbè, qualificazione e finale sono due gare a parte. Bisogna vedere, guarda, non ti so dire, la Vlasic l'ho vista bene, ha fatto dei salti altissimi, ho visto un salto, sembrava che stesse facendo 1,50, proprio basso, cioè altissima, pure la Friedrich, ma non lo so, sono tranquilla, stanotte non ho dormito tra l'altro neanche molto bene, perché fa caldo, se metti la coperta fa freddo, cioè se è tutto il contrario, anzi, se metti, abbiamo dei piumoni enormi, che mettendoli addosso ci fa sudare in una maniera, se poi non li abbiamo... Fa freddo, allora non sappiamo come fare, infatti un po' tutti hanno questo problema, però sai, un po' la tensione per la qualificazione, un po' per un po' tutto, domani sicuramente sarà diverso per la finale. guerra del piumone, Antonietta Di Martino, questa che ha parlato ai microfoni Rai. Torno ai miei ascoltatori, Emanuele D'Ancona, buongiorno. Ciao, ti do del tu perché ascolto. Prego. Tutti i giorni e credo di essere un... Siamo amici, ormai. Siamo intimi, benissimo. Il mio intervento riguardava prima il costo delle magliette, perché sono stato quest'anno in Scozia e nel negozio proprio del Celtic Glasgow le magliette dello sponsor Nike Dry Fit costavano 35 sterline. Io ho preso quella dell'anno scorso a 13 sterline e ne ho comprate due, quella di quest'anno e quella dell'anno scorso. Per esempio, se ne devo comprare una della mia squadra a 70 o 80 euro non la compro. Sì, c'è una certa variazione di prezzo dovuta, io credo, anche al, insomma, al fatto che il volume di mercato è maggiore. Però in generale le magliette in Inghilterra, così come in Spagna, insomma, costano grosso modo come quelle italiane. Tu mi segnali una... Il fatto che gli scozzesi appunto le vendano meno non mi sorprendono, quei 13 euro, quelle 13 sterline per la collezione dell'anno precedente, proprio perché c'è questo feticismo all'estero per cui si vuole la maglietta di quell'anno e bisogna averla, e si mette la maglietta per andare allo stadio, perché è una delle particolarità che vedete in televisione negli stadi stranieri, che tutti hanno addosso la maglietta con i colori della squadra, una cosa che in Italia non si vede, ma ripeto, è soltanto questione di cultura, di tradizioni, di gusti, anche di portafoglio, certamente, perché credo che in Italia ci siano altre priorità che non spendere 70-80 euro ogni anno per avere la maglietta di quell'anno con la riga un po' più stretta, un po' più larga, con lo stemmino un po' più spostato, un po' più al centro, insomma, differenze minime, dettagli che da altre parti fanno la differenza, da noi, che pure siamo un popolo modaiolo, evidentemente no. Alessandro, Luca, buongiorno. Buongiorno a lei. Probabilmente il mio intervento sarà un po' anacronistico, fuori di moda. Però io, che sono stato un amante del calcio, in questi ultimi periodi non ho altro sentito che passare messaggi dove le squadre praticamente non fanno più squadra con vari calciatori, a volte anche sconosciuti, insomma mi ricordo di Manicone, di Torricelli, Collovati, Evani, cioè tutte persone che sono passate nel mondo del calcio per le vittorie che hanno creato e che hanno contribuito a dare al calcio italiano. Cioè, oramai il calciatore viene dato in base agli 80 miliardi, 70 miliardi, 50 miliardi, ed a volte sono dei calciatori che fondamentalmente non aiutano né fanno del bene e tutto sommato fanno solo marketing. Io presumo e penso che anche quest'anno sarà un campionato monotono e non vinceremo nessuna coppa, perché il nostro campionato oramai è stato fatto per una mentalità provinciale dello scudetto. Dello scudetto, dove oramai il nome del calciatore sovrasta la tecnica del calciatore semplicemente per i miliardi che costa. Ma no, questo... io credo, guardi, insomma, parlare del prezzo del calciatore, io credo siano questioni di mercato. Il prezzo di un calciatore in Italia come all'estero, grosso modo, lo fa il mercato, è vero. Gira uno sproposito di quattrini, ma non solo in Italia, non solo in Europa e non solo nel calcio. Provate a dare un'occhiata agli stipendi, ad esempio, gli sportivi statunitensi, che nel baseball ci sono esempi di giocatori che guadagnano il triplo di Ibrahimovic. Un giorno di questi mi porto le cifre, ma insomma credo che i prezzi li faccia, i costi li faccia il mercato, insomma non credo che uno prenda un giocatore perché soltanto per il nome o per quant'altro. Quindi poi non so se sarà un campionato noioso o monotono. A questo proposito vi faccio sentire cosa ha detto Marcello Lippi ieri sera, poi passiamo ad Attilio e a Luca. Sono partiti Kakà e Ibra, però sono arrivati Eto'o, Lucio, Diego, sono arrivati i grandi giocatori. Abbiamo di nuovo recuperato un grandissimo italiano che si chiama Alessandro Nesta, e perciò non abbiamo perso tantissimo. Il campionato sarà il solito, molto avvincente, molto difficile, non il più bello ma il più difficile. E non è detto che chi ha passato un'estate con qualche delusione non debba magari avere qualche soddisfazione durante l'anno. Chi vince il campionato? La Juve. Questo era Lippi, molto secco sul nome della favorita, al microfono di Sky. Attilio da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Non sono completamente d'accordo con Lippi, ma questo non ha importanza. Sì, no, non ha importanza. Due cose, anche perché non ci azzecca mai. Abbiamo fatto lo stesso pronostico l'anno scorso. No, dicevo un'altra cosa. Sì, non me lo ricordavo. Glielo dico io. No, credo, ci credo sulla fiducia. No, ma non faccio fatica a crederci. Dica. No, No, mi chiedevo due cose, volevo chiedervi due cose. La prima, secondo lei se ci saranno dei botti importanti gli ultimi giorni di mercato, sue previsioni. Secondo, ho visto la partita di ieri sera, ma tutto sommato mi è sembrata una partita in tono minore, non mi è piaciuto francamente. Se sono due squadre che devono lottare per lo scudetto, il campionato italiano sta perdendo di classe, di qualità, tutto qua. No, che abbiamo perso di ragione. Attilio ha ragione, cioè, perdendo di classe, di qualità, beh certo, facciamo un po' fatica, nonostante Lippi prima abbia fatto l'elenco di chi arriva, di chi è arrivato ad arricchire il nostro campionato, certamente stiamo perdendo i colpi rispetto agli altri. La partita di ieri sera, insomma, sono due squadre, in particolare la Juventus, che lotterà per il titolo, non so se poi ci arriva, come dice Lippi, oppure no. Milan un po' meno. È chiaro che siamo al 17 agosto, è vero che il campionato è dietro l'angolo, però insomma mi sembra un po' prestino per dare dei giudizi definitivi e decisivi su questo punto. Luca d'Arezzo, buongiorno. Buongiorno, io avevo chiamato per fare una domanda. Innanzitutto mi complimento con la sua trasmissione, perché è sempre gradevole. Grazie. Avevo chiamato appunto per i preliminari di Champions League, perché ho constatato come altre volte, insomma, è capitato per le squadre di media fascia, è stato un po' trascurato, si è parlato di un amichevole sostanzialmente in prima battuta, ma si è sottaciuto di nuovo su una cosa importante che vale una stagione per attenzione alle squadre anche alte. E comunque anche un commento sul mercato comunque deficitario della Fiorentina, fatto al risparmio. Allora Luca, le rispondo molto rapidamente, poi sul discorso naturalmente torniamo domani alla luce della partita che vedremo questa sera. Rispondo anche all'ascoltatore precedente: non penso ci saranno grossi colpi di mercato negli ultimi giorni, se non l'arrivo, credo, di un trequartista all'Inter, e penso sarà Sneijder. La Fiorentina e il mercato della Fiorentina sarà deciso anche dalla partita di questa sera e seguente ritorno allo Sporting Lisbona, perché un conto è fare la Champions League e quindi avere necessità di allargare l'organico, un conto è rimanerne fuori. Domani torniamo alle 14, vi aspetto qui, grazie ad Alessandro Longoni in redazione, a Fabio Cantadone in regia.